in primo piano. Buongiorno, buon mercoledì, no, martedì, è solo martedì, da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Cominciamo da Financial Times, poi naturalmente sui quotidiani italiani la maggior parte delle aperture sono sulla inaugurazione ieri del ponte di Genova. Financial Times invece si concentra sugli Stati Uniti, perché anche gli Stati Uniti stanno varando uno dietro l'altro dei pacchetti di stimolo, ma l'ultimo, considerato necessario perché anche lì scadono i termini dei sussidi erogati finora, anche lì si sta discutendo in congresso e c'è un vero e proprio blocco, stallo. E quindi titola Financial Times, gli amministratori delegati, addirittura 100 da quello di Alphabet, quindi la società che controlla Google, a quello di Walmart, una delle più grandi catene della grande distribuzione, poi ci sono Facebook e tantissimi altri, quindi 100 tra i più importanti amministratori delegati delle società americane chiedono ufficialmente, chiedono proprio, fanno un appello perché si interrompa questo deadlock, cioè questo stallo sul pacchetto di stimoli. La fotonotizia però è dedicata a John Hume, forse era nato nel 1937, quindi aveva 83 anni, è scomparso ieri, forse ai più in Italia questo nome non dice tanto, ma è considerato uno degli architetti del trattato del Good Friday, del Venerdì Santo, che pose fine di fatto al conflitto tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda. Ci sono moltissimi che lo hanno ricordato, tra i quali Tony Blair e poi Bill Clinton, che era presidente all'epoca degli accordi, e lo ha ricordato secondo me con delle parole bellissime, che dice mostrò sempre un impegno unshakable, cioè incrollabile, per la non violenza, la resilienza, ma anche la gentilezza e l'amore. Fu infatti il suo contributo fu fondamentale per porre fine a una guerra fratricida, se vogliamo, nella isola dell'Irlanda. In prima pagina su Financial Times anche il tema di Wirecard, sapete, quel gigante del fintech tedesco, al centro di uno scandalo perché aveva nascosto oltre 1 miliardo di perdite. Il suo ex amministratore delegato, nonché fondatore, è in carcere, è stato arrestato 2 volte, è stato arrestato una prima volta, poi rilasciato su cauzione, una cauzione da 9 milioni di euro, e poi riarrestato. Ma oltre all'indagine che coinvolge l'equivalente della Consob tedesca, perché frodi del genere non si capisce come siano potute andare avanti fino ad accumulare appunto 1 miliardo di euro di fondi fantasma all'interno del bilancio. Lo scandalo è stato scoperto perché la società che doveva certificare il bilancio, Ernst & Young, si è rifiutata di farlo, ma ora salta fuori che avevano anche da Walmart è anche passato denaro sporco da riciclare. Il Financial Times mette nel titolo Mafia Money, quindi soldi della mafia. Poi nell'articolo si spiega che in particolare sono soldi dell'Andrangheta, che Financial Times definisce come una delle più pericolose organizzazioni mafiose d'Europa. Ci lasciamo però un attimo, così poi passiamo alle pagine interne di Financial Times, perché c'è un approfondimento interessante sul turismo, e poi a quelle dei quotidiani italiani. Ci fermiamo Logica, un attimo per spazio, la via. Spazio, tempo, module block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Non sono innamorata del Financial Times, che così mi dice scherzosamente un ascoltatore che ha mandato un messaggio WhatsApp al 349-238-6666, ma oggi mi sembra in particolare, appunto, da una parte purtroppo la citazione dell'Andrangheta, e dall'altra anche questo parallelo che possiamo fare, perché ogni paese, ogni governo, indipendentemente in realtà dal colore politico di quel governo, sta cercando di varare dei pacchetti di stimolo. Da noi è stato molto criticato l'estensione dello stato di emergenza, che però è anche quello che ha permesso di varare questi DPCM, almeno sulla carta, che hanno l'obiettivo di far arrivare in fretta gli stimoli decisi. Poi sappiamo che ci sono stati tutti i problemi con la cassa integrazione, ma con anche tantissime altre misure, però almeno l'impianto iniziale è concepito per questo, per velocizzare il processo ed evitare quello che sta succedendo negli Stati Uniti, dove chi frequenta un po' magari i social e anche di esponenti politici americani sa che adesso la rabbia sta veramente montando per questo muro contro muro che c'è al Congresso tra repubblicani e democratici, che non riescono a mettersi d'accordo, e quindi il pacchetto di stimoli è bloccato. Vi dicevo, da Financial Times anche ovviamente un approfondimento sulla vicenda TikTok. Donald Trump ha dato 45 giorni a Microsoft per trovare un accordo soddisfacente per l'acquisto di questo social network controllato dalla società cinese ByteDance, che secondo Donald Trump poi servirebbe per rubare dati personali agli americani. Sono oltre 100 milioni gli utenti americani di questo social network, 10 milioni scusate. È interessante l'analisi di Financial Times, perché Wan Yang, che è una giornalista di Financial Times che si occupa soprattutto di questioni cinesi, dice Huawei, che sapete altra società cinese presa di mira da Donald Trump, che l'ha bandita dagli Stati Uniti, e sulla scia della decisione americana è stata presa una decisione analoga nel Regno Unito, quindi Huawei resta fuori dai lavori per le telecomunicazioni di nuova generazione, cioè la rete 5G, e dice Huawei va difesa, e naturalmente è in corso il confronto tra Stati Uniti e Cina sulla questione Huawei, mentre ByteDance non vale una grande battaglia. Vedremo, perché in realtà poi ieri da Pechino sono arrivate dichiarazioni dai toni molto più aspri, cioè che Donald Trump non pensi di poter rubare TikTok alla Cina. Vedremo insomma come prosegue questo nuovo fronte aperto da Donald Trump. Il Sole 24 Ore, vi dicevo, come moltissimi altri quotidiani, prende spunto dall'inaugurazione di ieri del ponte sul Polcevera, che ha preso il posto del ponte Morandi crollato il 14 agosto del 2018, e però fa un approfondimento che va un po' oltre la cronaca dell'inaugurazione. Genova, una firma blocca la Gronda, perché nel sistema infrastrutturale genovese, che è stato di fatto interrotto, perché ha bloccato appunto, proprio ha diviso la città in due con il crollo del ponte Morandi, c'è anche la famosa Gronda. E scrivono poi Raul De Forcade e Maurizio Caprino, e trovate tutte le pagine 2 e 3, manca un solo passaggio, ma da un anno è fermo il via alla circonvallazione, cioè questa Gronda sarebbe appunto una sorta di circonvallazione della città che toglierebbe traffico oggi Ponte San Giorgio. Questo era un tema che era stato affrontato anche prima del crollo, perché già il Ponte Morandi era molto trafficato, e questa variante, questa Gronda, avrebbe, se fosse stata realizzata, ma non lo è e pare a breve non lo potrà essere, avrebbe appunto risolto alcuni problemi di viabilità di Genova. Mattarella inaugura il ponte San Giorgio a 2 anni dalla tragedia. La foto è dedicata all'industria delle due ruote, c'è la foto di una catena di montaggio di scooter, perché poi l'approfondimento che trovate a pagina 10, moto più 25% le vendite sostenute dagli eco incentivi. Quindi a proposito appunto di stimoli che funzionano, questi hanno avuto un effetto immediato. Torniamo però un attimo sulla questione del ponte, perché ci sono altri 3 approfondimenti richiamati in prima pagina dal Sole 24 Ore. Uno di Giorgio Santilli: il modello Genova è stato vincente con l'unità politica, perché è vero che la burocrazia è stata di fatto velocizzata, anche perché c'era un commissario che era anche il sindaco di Genova, Bucci, però è anche vero che di fronte a questa tragedia si è trovata anche un'unità politica anche nonostante anche il cambio di governo che c'è stato, no? Perché all'epoca del Ponte era il cosiddetto Conte 1, quindi il Movimento 5 Stelle governava con la Lega, e poi nel corso di questi due anni c'è stato naturalmente la crisi di governo dello scorso agosto e il nuovo governo, dove il Movimento 5 Stelle governa con il principale alleato, che è il PD. Per anche un approfondimento su come è stato possibile mettere insieme un pool di aziende, perché naturalmente ce ne sono volute tante con competenze diverse, Marco Morino a pagina 2 spiega una super squadra di 330 imprese nella ricostruzione. E poi c'è il tema delle concessioni, perché Andrea Biondi a pagina 3 spiega tempi più lunghi per chiudere tra ASPI e Ministero. Trovate tutto, come vi dicevo, alle pagine 2 e 3. Vi segnalo subito, perché così poi passiamo anche alle altre prime pagine, perché questo è un tema, tra l'altro su Financial Times c'è una pagina intera sulla crisi del turismo in Turchia. In Italia naturalmente il turismo, uno dei settori più provati dall'emergenza, prima emergenza sanitaria e ora soprattutto economica e sociale, turismo, gli operatori, subito gli sgravi fiscali per ripartire. E di spalla, a pagina, il pezzo è principale di Barbara Ganza, pagina 6, e poi di spalla da Nicole degli Innocenti, che è la corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, ci spiega come sta andando quel bonus di cui avevamo parlato a Effetto Mondo quando era stato annunciato, perché tutti i quotidiani britannici ne avevano parlato, questo bonus per favorire la ristorazione. Pranzo e cena a metà prezzo, così Londra offre aiuto ai ristoranti. Sconti del 50% dal lunedì al mercoledì. La differenza non significa che gli scortatori devono fare degli sconti, la differenza viene pagata dal governo. Il Corriere della Sera, come molti altri giornali, ha in prima pagina quella foto in effetti davvero simbolica. Ieri è stata una giornata anche qui di tempo, anche qui a Milano, in Lombardia, di tempo un po' tropicale. Abbiamo visto piogge battenti e poi raggi di sole, e a Genova la pioggia non è stata come quella proprio del 14 di agosto, pioveva di rotto nel momento in cui crollò il ponte, però poi subito dopo c'è stato un arcobaleno. E che arcobaleno, perché sembrava proprio fare come una specie di cupola protettiva sopra il ponte. Il titolo del Corriere della Sera è l'arcobaleno sul nuovo ponte, così Genova è tornata unita, con poi servizi a pagina 2 e 3. Il titolo principale però a centropagina è dedicato a quello che avete sentito anche nel GR, cioè i risultati dei test sierologici, con questa analisi dell'Istat, perché è un'analisi a campione, ricordiamocelo, cioè da questo però l'Istat che fa il suo lavoro di analisi dei dati statistici e di inferenze statistiche, da questo ha pubblicato i numeri reali del contagio. Gli italiani entrati in contatto con il virus sono 1,5 milioni, 6 volte i casi ufficiali. L'analisi è di Margherita De Bach, che è una degli esperti del Corriere della Sera su temi di medicina e salute. La Repubblica, anche in questo caso, foto in prima pagina del Ponte San Giorgio, non con l'arcobaleno ma con il momento in cui le frecce tricolori hanno sorvolato il cielo di Genova durante l'inaugurazione del nuovo ponte, ovvero viadotto. Il giorno del ponte, adesso Genova prova a rinascere, l'articolo principale di Francesco Merlo, e poi naturalmente ci sono tutti gli approfondimenti anche sulla reazione dei parenti delle vittime, le 43 vittime che non hanno partecipato all'inaugurazione sul ponte, ma in prefettura a Genova hanno incontrato il capo dello Stato Sergio Mattarella, perché naturalmente, come sappiamo, sono passati appunto quasi due anni, la concessione è stata revocata, anche se abbiamo visto non ci sono ancora i termini esatti di questa revoca, non si capisce chi veramente ci guadagnerà e chi invece ci perderà. E poi soprattutto resta aperta la vicenda giudiziaria, cioè bisogna trovare i responsabili, l'ha detto anche ieri il presidente Mattarella, ma il processo è in corso, le prime udienze, tra l'altro le prossime udienze saranno in ottobre. Il titolo principale della Repubblica però è dedicato a quello che sta succedendo nella Lega. Secondo la Repubblica è crisi di nervi nella Lega. Zaia e Giorgetti. Zaia è il governatore del Veneto, due autorevoli esponenti della Lega, e Giorgetti è stato consigliere anche quando Salvini era vice premier, consigliere di Salvini, ma è comunque una voce sempre molto ascoltata nella Lega. Dice Repubblica: Zaia e Giorgetti sempre più distanti da Salvini. Il governatore Zaia è irritato per le giravolte del leader sulla pandemia. Rischio scissione, sempre secondo Repubblica, da Lombardi e Veneti, no al Partito Nazionale. Avvenire, a sua volta, questa foto bellissima, davvero sembra quasi inventata, del ponte con sopra questa ideale cupola disegnata dall'arcobaleno, un ponte per Genova, un segno per l'Italia. E invece adesso no, manca ancora qualche minuto alla pausa per dove sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo. Vi segnalo due approfondimenti dell'Avvenire a pagina 5. Uscita dei Benetton, slitta la firma, quindi il tema trattato anche dal Sole 24 Ore, perché, e questo naturalmente alle vittime ha fatto particolarmente male, il ponte in questo momento, in assenza dei dettagli sui nuovi concessionari, è ancora gestito da ASPI, cioè lo stesso gestore che lo gestiva quando è crollato. Si prende tempo sull'avvio dell'iter per cedere le quote. E poi un approfondimento sull'inchiesta, incurie e violazioni. A ottobre la perizia sulle cause del crollo. Sono 71 gli indagati per omicidio colposo. Forse in gennaio il rinvio a giudizio. E il procuratore Cozzi, che ieri ha concesso un'intervista al Fatto Quotidiano che abbiamo citato, non cadremo nella prescrizione, perché c'è anche questo masso, questa spada di Damocle sull'iter giudiziario, cioè la prescrizione. E sull'onda del procedimento maggiore sono stati aperti altri 4 fascicoli sulla sicurezza di tunnel e autostrade liguri, altre autostrade naturalmente. Magari ci fermiamo subito, così poi vediamo le altre prime pagine per l'aggiornamento, come vi dicevo, sul meteo. No. In primo piano.